In questi anni abbiamo lavorato su autori chiaramente che non avevano bisogno di sotto 18 per essere scoperti, però sono stati un po' trascurati. Questo valeva per Fritz, che è stato il primo autore, valeva anche per i successivi fino all'anno scorso a Winterbottom. Backlick insomma è sicuramente un autore conosciuto, forse più conosciuto per i suoi film che non tanto per il suo modo di lavorare, per la sua poetica, direi proprio, per il suo stile. Ed è un peccato che la critica italiana in particolare l'abbia un po' dimenticato, perché l'unica retrospettiva precedente a questa che è stata organizzata in Italia risale oramai a diversi anni fa, organizzata con merito dal Bergamo Film Meeting, però appunto era nei tempi di Naked, quindi insomma non erano neanche ancora usciti i film poi che hanno dato la notorietà a Mike Leake. È un regista che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, le Palme d'Oro, i Leoni d'Oro, Oscar e via dicendo, quindi è un autore sicuramente più apprezzato forse dalla critica straniera che non dalla critica italiana, anche se poi se voi leggerete, avete la voglia di leggere i saggi che quest'anno mi paiono particolarmente belli, particolarmente coinvolgenti, che costituiscono il volume che come sempre accompagna la retrospettiva, vi renderete conto che insomma è veramente un regista grosso, importante, è un regista che ha quest'anno della creatività, questo come sapete è l'anno in cui sotto 18 ho scelto come tema quello della creatività, direi che Mike Leake è veramente un autore che ci sta appieno sotto questo tema. Già dal suo modo di lavoro, che insomma gli ha spesso un modo di lavorare, che spesso gli ha creato dei problemi, lui parte senza una sceneggiatura e incomincia a lavorare prima individualmente, poi in gruppo con i suoi attori e così costruisce la sceneggiatura. Chiaramente questo gli ha comportato nel corso della sua attività anche dei problemi, nel senso che poi per molto tempo non è riuscito a fare film per il cinema, ha lavorato come molti autori inglesi brillantemente nell'ambito della televisione britannica. Ebbene, questa retrospettiva vuole essere così un momento di punto sul suo cinema.